Dovessi starmene seduto per una vita, fino a quando avrò un figlio. Dopo quanti anni mio nipote si alzerà? Se stessi in piedi invece, fino a quando non avrò forza, anche dopo uno sbadiglio, dopo quanti anni mio nipote si siederà? È una vita che mi alleno, speriamo almeno che mi servirà. Sono giorni che digiuno, un altro giorno non mi ucciderà. Se fosse solo genetica, basterebbe capire da chi dei due prenderà. Mi servirebbe un'America da scoprire e lasciare a qualcuno in eredità. Sei sul blocco di partenza, stringi forte gli scarpini, pochi attimi alla corsa, dosa bene i tuoi respiri. Tira dritto e non pensare, porgi avanti il testimone. Non c'è ostacolo che puoi temere, oh, e non esiste soglia del dolore. Questa intervista è un po' disco della settimana perché vogliamo raccontarvi il disco di un artista, il lavoro di un artista che è uscito con l'album di esordio pochissimo tempo fa, il 5 febbraio. Si chiama Fabrizio Fusaro ed è qui al telefono con noi. Benvenuto Fabrizio. Ciao, eccomi, grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere qua con noi e per raccontarci un po' appunto il tuo lavoro. E ricordiamo che tu sei torinese, sei giovanissimo, hai 23 anni, quindi sei un giovane cantautore e sei uscito appunto da pochissimo col tuo album d'esordio, che ha un titolo molto particolare, Di quel che c'è non manca niente. Visto appunto che il titolo è sempre una scelta molto importante in un album, ti vorremmo chiedere di spiegarci come mai hai scelto di chiamarlo così. In realtà è venuto appunto da sé. Il disco è stato registrato in due periodi differenti, nell'inverno e nell'estate del 2019, e nel periodo, diciamo, a metà tra queste due fasi ho scritto la title track, che appunto è Di quel che c'è non manca niente, e nel processo appunto creativo di scrittura mi sono accorto che il pezzo in sé racchiudeva tanto di ciò che volevo comunicare. Parlava tanto di casa, parlava di famiglia, ed erano temi che racchiudevano un po' tutti gli altri brani, e quindi diciamo, me ne sono accorto subito che sarebbe stato questo il titolo. Poi mi piace in generale anche la frase, quindi questa è una frase che mi ripete spesso mio nonno quando gli si chiede, non so, mi serve qualcosa, mi serve un oggetto, un utensile, uno strumento, mi dice tranquillo, di quel che c'è non manca niente, quindi lo si trova. Quindi è un po' un modo di dire piemontese, un vostro modo di dire. In realtà penso sia a Veneto, comunque sì, io sono in Piemonte, quindi. Ma invece riguardo alle storie che racconti in quest'album, cosa è entrato nelle tracce che compongono di quel che c'è Non manca niente? Sono andati tanti, per lo più sono tanti ricordi, ad esempio Dormi Serena, che forse è il brano a cui sono più legato, è un ricordo di una vacanza, di un'estate, così come ad esempio Solo un giocattolo invece è il ricordo dell'infanzia passata con mio fratello, quindi è anche più facile raccontare cose che si è vissuto, anche perché, cioè, dovessi immaginarmi scenari fantastici e fantascientifici sarebbe del tutto più difficile scrivere, invece rifacendomi a ricordi è più facile, mi trasporta anche di più. Però è anche un gesto molto intimo comunque condividere i tuoi ricordi con gli ascoltatori, insomma è una scelta coraggiosa, diciamo, no? Eh sì, mi capita già di dire che non ci ho mai pensato al salto dalla cameretta eventualmente alle cuffie di altre persone, ma forse meglio in continuo non pensarci, perché magari... per non mettermi paletti. Ok, facciamo, non ti volevo far prendere male, non ti preoccupare. E invece, se parliamo del più che altro del punto di vista musicale, un po' abbiamo parlato dei contenuti, appunto, dei testi, invece a livello musicale, in un momento in cui si sentono poi molto spesso più suoni elettronici, hai scelto di fare solo dei pezzi di chitarra e voce con dei suoni molto dolci, e come mai hai scelto questo strumento? È il tuo strumento prediletto? Ce ne sono altri? In realtà è lo strumento con cui ho cominciato a scrivere, cioè, nonostante abbia cominciato a suonare effettivamente il piano, a prendere lezioni di piano, poi una volta preso in mano la chitarra è stato anche più facile all'inizio cantare canzoni di altri e poi provare a scrivere le mie, e una volta diciamo seduti al tavolino con Ale Bavo, che è il produttore appunto del disco, tutti i brani su cui abbiamo cominciato a lavorare abbiamo cominciato a lavorarli partendo da chitarra e voce, raramente è stata appunto estratta, comunque è rimossa la chitarra dalla spina dorsale del pezzo, ma comunque penso che, cioè, è più una, diciamo, un'interpretazione anche artistica di Ale, che ha saputo inserire l'elettronica dove serviva, lasciare la chitarra dove serviva, insomma, senza snaturare troppo tutto quanto. Perfetto, ti chiederei a questo punto di scegliere una canzone da ascoltare assieme alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, se ti va di scegliere e spiegarci il perché, e poi torniamo a farti qualche domanda. Ok, io sceglierei Dormi Serena, che è appunto il brano a cui sono più legato, anche come sonorità, come ricordi, insomma, è questo. Perfetto, allora adesso ce lo ascoltiamo e poi torniamo da te. Risacca nel temporale, c'è il tempo giusto per riposare. È ancora buio, dormi serena con le mie dita sulla tua schiena. Sei lenzuola da asciugare sul corrimano delle scale. Picchio di ombrellone che non smette di girare, e ti terrò sotto l'ombra di un aquilone, che tu possa riposare anche per me. Ci fosse vento correrei, restasse fermo invece ti guarderei. Sveglia, me lo racconti. sotto l'ombra di un aquilone, che tu possa riposare anche per me. Ci fosse vento, correrei. Restasse fermo invece, ti guarderei. C'è un altro brano che ci ha molto incuriositi, il brano che si chiama 28 dicembre, insomma, cosa è successo il 28 dicembre? Volevamo chiederci se potevi spiegarci un po' questo brano. Ah, ok, allora, anche questo qui è il brano che, su cui lavorai al Festival nel 2017, quindi è forse il brano più anziano del disco. E lo scrissi al tempo ispirandomi ad un ritaglio di giornale che conservò mio nonno, ed era una storia, purtroppo autore e autrice è rimosso dal ritaglio, comunque era semplicemente una storia che parlava di due innamorati, appunto, a metà da Torino, e niente, era la storia di questo di quest'uomo che era stato lasciato, rifiutato, ma diciamo accettava il suo dolore, accettava la scelta della sua ex compagna, ma il 28 dicembre, che era il giorno in cui questo loro amore si era sbocciato, lui comunque passa qua mi pare la sede della RAI dove lavorava lei, lasciandogli un mazzo di fiori. E questo, insomma, questo era il 28 dicembre, e questo di cui parla la canzone. Perfetto. Prima abbiamo parlato della chitarra, che appunto era un po' il tuo strumento. Ti volevo chiedere com'è nato il tuo rapporto con la musica, insomma, quando hai iniziato a avvicinarti alla musica e come è stata presente poi nella tua vita finora. Sì, allora ho cominciato il mio rapporto con la musica, è iniziato come quello di tutti quanti, cioè ovviamente ascoltandola. In particolare la prima ossessione me l'ha passata mio fratello per i Coldplay. Ai tempi io ero molto molto giovane, ed ero molto molto ossessionato con questo gruppo, e da lì ho cominciato ad esplorare, come tutti, i vari generi, i vari ed altri ambienti. Ho cominciato a prendere lezioni di piano, soprattutto per suonare le canzoni che sentivo, quindi più un'esigenza di riproduzione, poi la creatività è arrivata più avanti, quasi naturalmente, quasi non ricordo neanche i passaggi. E il primo pezzo che hai scritto tuo, a quando risale? Se non sbaglio l'avevo scritto anche in inglese, perché ho avuto questo periodo che condividono con me tanti cantautori, che si prova a scrivere anche in inglese, e ovviamente ho scritto molto molto male, con un inglese molto "the pen is on the table". Ok. E infatti poco dopo mi accorsi, cioè un paio di pezzi dopo mi accorsi che era molto più facile, ma soprattutto bello, scrivere in italiano, e così è stato, cominciai e ancora oggi lo faccio. Bene, e questo è il tuo primo progetto musicale, o prima hai avuto qualche collaborazione con altri gruppi, o hai suonato con qualcun altro? No, sono sempre stato io allo sbaraglio, e questo è un po' il primo passo di cui sono fatto con consapevolezza e con l'idea di, cioè con un'idea sensata, e quindi sono molto, cioè questo disco è proprio la coronazione, o il coronamento, o non lo so. Il coronamento. Il mio percorso. Sono tanto contento di quando di vederlo e di ascoltarlo adesso che è uscito. Tra le ciglia di un cielo in tempesta ce n'è uno che brilla di più, e mentre cade finché tocca terra resta il lampo più bello che ho. giorno morì. Marilisa, sei solo un ricordo, ma sono stupido io e non ti scorderò. Sono stupido io maldestro piromane, brucio e sono il solito io. Quello duro di testa, rimango soltanto uno stupido io. Io maldestro piromane, brucio ogni cosa che ho. Vivo i ricordi che ho. Adesso è passato quasi un mese, insomma, poco più di un mese, anzi, dall'uscita dell'album. E in questo primo mese che feedback hai avuto, sia personali o da persone che non conoscevi? Sì, molto molto positivo, anche perché adesso siamo nel futuro, e quindi con varie applicazioni posso vedere quante persone lo stanno ascoltando, e già ogni tanto vedere che ci sono due persone che lo stanno ascoltando mi viene a dire: ma chi è questa gente? Chi è? Poi mi si può vedere anche da dove mi ascoltano, e questa cosa è una cosa che mi fa impazzire, che siano due, che siano 2000 o 2 milioni, è sempre una cosa bellissima vedere che ci sono persone che non conosco che dedicano il proprio tempo alla musica e alla mia musica, è sempre bellissimo. Immagino che sia molto soddisfacente, infatti. Ti volevo anche chiedere un'altra cosa legata appunto a questo periodo. Dicevi appunto, siamo nel periodo delle tecnologie in cui si può controllare un po' tutto, no? In un qualche modo, e anche nel periodo in cui le tecnologie stanno un po' soppiantando purtroppo la possibilità di fare diverse cose dal vivo, tra cui i concerti, e l'uscita di un album spesso è accompagnata proprio da un tour o da dei concerti live che in questo momento purtroppo non si possono fare. Tu come stai vivendo questa cosa? Pensi di fare dei concerti in streaming o di trovare soluzioni alternative, o per il momento lasciamo da parte questo aspetto della promozione del disco? Ovviamente non lo sto vivendo bene come tutti i musicisti. Diciamo, l'esigenza che dell'uscita del disco in questo periodo viene anche da non poter aspettare più altro tempo, perché effettivamente è stato un lavoro che è stato chiuso all'inizio del 2020 e abbiamo passato giustamente un anno ad aspettare. È stato, cioè, ho per tantissimo tempo ho immaginato i giorni in cui avrei suonato dal vivo il disco, avrei presentato una festa con le persone che mi avevano aiutato, insomma. Non è stato possibile, ma diciamo, incrocio tutte quante le dita per quest'estate. Le incrociamo anche noi, sperando che ci sia la possibilità, insomma, appunto di live. Tra l'altro a Torino è bellissima, ci sono anche tanti spazi stupendi e sarebbe molto bello poterti sentire in quella città, ecco, a cui anche noi siamo molto legati. Speriamo sì, assolutamente, anche perché pensare a un'altra estate senza concerti, senza festival, è davvero molto brutto. Ma poi soprattutto i festival sono una cosa che mi manca veramente tanto, andare come ascoltatore, magari stare lì, speriamo. Speriamo, infatti, lo speriamo anche noi, magari ci incroceremo al Today se lo faranno quest'anno, insomma, chissà. Bene, sarebbe molto molto bello. Allora, riguardo al tuo album, appunto, prima abbiamo già ascoltato due canzoni, ti chiederei allora intanto se c'è un messaggio che vuoi dare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, e anche se ti va appunto di scegliere una canzone per chiudere questa nostra chiacchierata, e anche se ti va di spiegarci perché l'hai scelta, ecco. Ok, allora, se dovessi dire qualcosa agli ascoltatori, innanzitutto mi ringrazio per essere persone che ascoltano la radio, ascoltano la musica, ed è una cosa importantissima, soprattutto adesso ci sono tanti artisti a cui il tempo di cui parlavo prima è già un grandissimo regalo, quindi continuate ad ascoltare la musica e arriverà il giorno in cui la ascolteremo tutti dal vivo. E il brano che farei ascoltare è Serie A, che è l'ultimo, diciamo, l'ultimo disco, cioè l'ultimo disco, l'ultimo singolo che è uscito dal disco, è un brano scritto con Alberto Bianco. E nonostante sia un'atmosfera un pochino più distante dall'intimità, dalla vicinanza degli altri brani, è un brano a cui sono tanto tanto legato, un po' perché ho sempre ascoltato la musica di Alberto, e quindi nel momento in cui abbiamo cominciata questa collaborazione, diciamo, è stato lì anche un grande traguardo. Insomma, sono tanto legato al brano, e niente, spero piaccia. Bene, allora grazie per condividere con noi questo brano e grazie per l'intervista. Speriamo allora che la promozione del disco continui fino a quest'estate, speriamo di poter avere la possibilità di sentirci live. Sarebbe bello. Grazie, ciao. Grazie a te, grazie di tutto, ciao. C'è un presidio di lavoratori di fronte a una fabbrica, gira voce che non gira voce da 5 anni fa. C'è una serie di 20 bandiere che sembrano una, e quando serve passa il vento a sventolar. Con un terzo dei soldi che spendo ogni giorno per acqua ed elettricità, potrei finanziare una squadra di calcio emergente che arrivi poi in Serie A, in Serie A, in Serie A. Che arrivi poi in Serie A, in Serie A, in Serie A. Che arrivi poi in Serie A. Sarà una via d'uscita per evitare la salita. Cerco un punto che mi salverà, ma ci sarà una via di fuga per evitare la caduta. Resta chi non retrocederà. La scrivania, e quando serve passa il vento a sventolare. Con un terzo dei soldi che spendo ogni giorno per tasse d'università, potrei diventare una stella del calcio emergente che arrivi poi in Serie A, in Serie A, in Serie A. Che arrivi poi in Serie A, in Serie A, in Serie A. Che arrivi poi in Serie A. Ma ci sarà una via d'uscita la salita. Cerco un punto che mi salverà, ma ci sarà una via di fuga per evitare la caduta. Resta chi non retrocederà, chi non retrocederà. Ma mi ritrovo con una fila di punti sul braccio ed ogni cosa che faccio mi riporta di là, e forse la Serie A non era poi quello che sognavamo quando giocavamo in strada io e te, perché nei sogni all'inizio non c'è quasi mai spazio di immaginare un percorso che preveda un percorso per saltare un percorso che arrivi poi in Serie A. Ma ci sarà una via d'uscita per evitare la salita. Cerco un punto che mi salverà, ma ci sarà una via di fuga per evitare la caduta. Resta chi non retrocederà. Giocavamo in strada io e te, perché nei sogni all'inizio resta chi non retrocederà.